impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Nicoletta Merlo, le quattro generazioni dei formaggi Mauri, di Alessandra Scaglioni. Nicoletta Merlo è amministratore delegato di Mauri S.p.A., azienda casearia della Val Sassina, giunta alla quarta generazione che esporta in tutto il mondo. Una storia che inizia con il bisnonno Emilio Mauri e il taleggio. L'azienda è stata fondata da Emilio Mauri intorno al 1920 in Val Sassina. Lui era originario della Val Sassina e ha iniziato solo come stagionatura di un prodotto che oggi è un DOP, che è il taleggio. Poi con gli anni ha aggiunto alla produzione del taleggio, che è stata prevalente, preponderante per la Emilio Mauri S.p.A., altre produzioni tipiche tipo robiole, gorgonzola, quartirolo, tutti prodotti che poi intorno al 1980 sono diventati a denominazione d'origine protetta. All'inizio si tratta di una piccola attività artigianale nel solco della tradizione. Poi arriva il caseificio. Sono gli anni tra le due guerre. Le attività sono ancora legate al mondo rurale, ma iniziano a crescere. Era piccola e lavorava solo il latte della zona, della Val Sassina, delle montagne. Poi, essendo diventato poco questo latte per i fabbisogni dell'azienda, si è trasferito, ha preso un caseificio nella Bergamasca a Treviglio. La storia racconta che addirittura in quegli anni, tra le due guerre, col carretto, coi cavalli, col carretto, e andava in città, la città più vicina o nei paesi più vicini, a consegnare il prodotto. Nel 1938 la Mauri diventa società per azioni, poi il dopoguerra, la crescita in un'Italia che si sta industrializzando, dove cambiano le logiche di mercato e quelle della distribuzione, e dove cambia anche l'azienda, nell'organizzazione, nel marchio e nei prodotti. Credo che la chiave più grossa di cambiamento l'abbia data mio padre, quando è subentrato in azienda e ha iniziato a... Ha costruito uno stabilimento di produzione decisamente efficiente e importante a Treviglio. E da lì abbiamo iniziato intorno a, direi quando sono nata io, gli anni nel 66-67, a servire la grande distribuzione, che allora erano solo due marchi, GS ed Esselunga, ma dove noi abbiamo iniziato, e quindi da lì, entrando nella grande distribuzione, è iniziato lo sviluppo più importante. Un altro passo importante che credo noi dobbiamo sempre ricordare è il marchio che è stato dato al prodotto, Bon Taleggio. E questo, anche il fatto di aver dato un marchio a un prodotto che era sempre stato denominato da tutti solo e soltanto come taleggio, è stata una chiave abbastanza di svolta per la nostra azienda. Nicoletta Merlo entra in azienda giovanissima alla morte del padre, a 22 anni, e porta avanti l'eredità della famiglia. Io non capivo niente, non sapevo niente, ero a Milano che studiavo, e quindi mio papà è mancato in 4 mesi, per cui è stato all'inizio difficilissimo. Io ricordo dei primi mesi pochissimi episodi, perché ero, già dilaniata dal grande dolore, e poi effettivamente di questa azienda sapevo poco. I collaboratori di mio padre, decisamente bravi, direi che mi hanno aiutato parecchio. Io ho due sorelle, che però sono due mamme meravigliose, mi hanno dato 5 nipoti e loro non lavorano. Sono state estremamente intelligenti, però loro, a capire che io, se avessi lasciato l'azienda in quel momento, come magari il mercato chiedeva, perché era gli anni delle grandi acquisizioni nel settore alimentare, per me sarebbe stato perdere il papà due volte, quindi io non me la sentivo. E mi sono buttata a capofitto. L'unico merito che posso riconoscermi è stato quello di avere l'umiltà di ascoltare tutti. Oggi Mauri lavora 150.000 litri di latte ogni giorno ed ha mantenuto un forte legame con il territorio, sia dal punto di vista della raccolta della materia prima che per la tradizione della lavorazione. Sì, nella produzione sostanzialmente il cambio l'ha dato lui, perché oggi noi produciamo tutto a Treviglio, quindi in provincia di Bergamo, raccogliamo tutto il latte Matte in provincia di Bergamo, ricca di materia prima, quindi oggi noi lavoriamo intorno ai 1200 quintali di latte al giorno, e questo è stato insomma un altro importante cambiamento. Poi la merce viene portata, e ancora oggi funziona così, in Valsassina a stagionare, e quella fresca sempre in Valsassina per il confezionamento. Abbiamo dei conferenti ormai storici, nel senso che hanno conosciuto mio papà, hanno conosciuto alcuni, hanno conosciuto i padri di alcuni, hanno conosciuto il mio nonno, e sono sostanzialmente quasi sempre gli stessi. Il fatturato dell'azienda è in crescita, ma i dati positivi arrivano soprattutto dall'estero, mentre il mercato italiano tiene, ma è fermo. Allora, le sedi sono la sede produttiva a Treviglio, in provincia di Bergamo, e poi la sede legale dell'azienda, il centro di stagionatura e confezionamento, è Pastura, in Valsassina, in provincia di Lecco. Siamo circa 110 persone e il fatturato è intorno ai 33 milioni, di cui circa il 40% è fatto all'estero. Noi abbiamo una commerciale in America costituita un anno fa, quindi in America, Stati Uniti d'America, e poi abbiamo mercati importantissimi tipo Australia, Russia, paesi arabi, stiamo iniziando da poco ma stanno andando bene, Sud America, Brasile, posti strani tipo, che so, Cuba, e l'Europa ovviamente. È stata Nicoletta Merlo ad aprire la strada dei mercati internazionali. Europa, Stati Uniti, Russia, Australia e Canada. E nel marzo del 2012 è stata costruita la Emilio Mauri USA per presidiare il mercato locale. Abbiamo iniziato negli anni 90 espandendoci in continuo. Io ho iniziato a lavorare nell'89, quindi subito dopo poco. Quello che mi ha aiutato è stato, io credo, il fatto che dopo la morte di mio padre mi chiamavano tante merchant bank per vendere l'azienda, dicendomi, mettendomi la paura dell'Europa, dicendo ma perché adesso c'è l'Europa, l'euro, la moneta unica, eccetera, per le aziende come voi non c'è futuro. E non so, questo mi ha dato un po' lo stimolo, dicendo va bene, c'è l'Europa, ci uniamo. E quindi è iniziato da lì anche un po' ad affrontare prima l'Europa e poi l'extra Europa, insomma. Dal punto di vista del prodotto e della sua lavorazione, la tradizione resta il punto di riferimento, anche perché le lavorazioni si legano alle caratteristiche del territorio e degli artigiani. Il prodotto fresco viene portato in Valsassina, che è una zona in montagna sopra Lecco, dove ha sede legale l'azienda, e qua viene stagionato nelle grotte naturali. Sono delle grotte nelle quali arrivano dei soffioni d'aria provenienti dalla Grigna, che è la montagna più alta che abbiamo in Valsassina, e queste provocano un raffrescamento e un'umidità naturali. Quindi il prodotto, il taleggio, il gorgonzola oggi viene stagionato e curato manualmente, nel senso che poi tutte le fasi di lavorazione avvengono manualmente, dalla salatura del prodotto al rivoltamento durante la stagionatura, è tutto completamente manuale. Ma per presidiare nuovi mercati la strada scelta è quella della differenziazione del prodotto. L'innovazione che è avvenuta negli ultimi anni è stata quella innanzitutto di prodotto, nel senso che abbiamo iniziato a lavorare anche il latte di capra, costruendo anche qui un mercato che in Italia non esisteva, perché è sempre stato prevalentemente francese, e io mi sono chiesta perché i francesi sì e noi no. Per cui anche qui abbiamo iniziato con delle stalle piccole, quantitativi piccoli, e gli agricoltori sono cresciuti con noi, per cui oggi abbiamo una vasta gamma di prodotti fatti con latte di capra, dai freschi, crescenza, caprini di latte di capra, formaggelle, a prodotti anche stagionati, e questa è un'innovazione di prodotto importante. Però tutto quello che riguarda taleggio, gorgonzola, quartirolo, i prodotti DOP, la ricetta, il metodo, insomma, è sempre quello di una volta. Tra le prospettive dei prossimi mesi c'è un'ulteriore diversificazione del prodotto per raggiungere nuovi mercati sia in Italia sia all'estero. Abbiamo in cantiere tante idee di nuovi prodotti più giovani rispetto ai tradizionali che facciamo per ampliare la gamma, e soprattutto ci stiamo focalizzando su dei prodotti un po', non posso dire molto, ma un po' benessere, un po' che si avvicinano a delle esigenze del consumatore oggi. E poi il mondo è tanto grande, per cui abbiamo ancora tanti paesi da visitare. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.